l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro viaggio, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa, la crisi, l'economia, la politica, insomma la fanno da padrone in questi giorni, beh dire questi giorni anche restrittivi, in queste settimane, forse in questi mesi, lo sapete, noi cerchiamo di raccontare l'Europa anche da altri punti di vista. In questa puntata invece andremo a esplorare, a toccare i luoghi della crisi raccontando storie di persone. Un programma in collaborazione con il network Euronet, euronet.eu, che come sempre vi consiglio di andare a visitare per tutti i dossier che vengono pubblicati e realizzati in tante voci diverse, quindi proprio la ricchezza di avere tanti approcci particolari, caratteristici di ogni zona, di ogni nazione della nostra Unione. facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali, oppure chiocciola Federico Taddia per Twitter, i nostri social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Si parte anche oggi, la prima tappa è la Germania. Die Hälfte der Wahlberechtigten ging gar nicht erst an die Urnen bei diesen Kommunalwahlen und die andere stimmte aus Frust über die aktuelle Politik in Italien für Protestkandidaten. So zog in Parma Federico Pizzarotti mit stolzen 60% ins Rathaus ein, als erster Bürgermeisterkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung. Die hatte sich 2009 um den aufmüpfigen Politkomiker Beppe Grillo gegründet. Si è parlato in tutta Europa ovviamente del fenomeno Beppe Grillo e in particolare del sindaco di Parma Pizzarotti, del Movimento 5 Stelle. Lo sapete che fare una cultura dell'Unione è anche vedersi, capirsi reciprocamente ed è quello che stanno facendo in questi giorni in Germania gli amici del quotidiano TAZ, con un lavoro realizzato qui in Italia di ricerca, esplorazione, di contatto diretto anche con i nuovi sindaci e non solo, per capire l'Italia ma fare anche dei possibili parallelismi con le altre forze civiche, per esempio i pirati in particolare, parlando di Germania. Questo lavoro lo sta curando un amico dell'altra Europa e diamo il ben ritrovato al giornalista del TAZ, Ambros Weibel. Ciao Ambros. Ciao Federico, come Ciao. Stai? Molto bene, tu? Sì, stiamo bene qua. Ci siamo sfiorati nel tuo passaggio italiano della settimana scorsa. Prima di entrare nelle questioni prettamente politiche, so che hai visitato anche le zone terremotate. Cosa hai raccolto? Che sì, impressione infatti, hai? Infatti, devo dire che l'impressione più sconvolgente era in un casificio vicino a Modena, dove migliaia di parmigiani sono caduti, dove la gente adesso lavora 17-18 ore al giorno per salvare la propria esistenza, e questo è stato molto, molto sconvolgente, ma anche molto bello, perché la gente ha subito voglia di ricominciare, di fare, diciamo, una esperienza anche molto impressionante. Poi siamo stati a Mirandola, al centro di Mirandola, nella zona rossa, dove 6.000 abitanti hanno dovuto lasciare la loro casa. Anche qui ovviamente una cosa triste, ma anche qui molta voglia di fare, molto coraggio. Tra l'altro, insomma, l'Emilia, per motivi turistici probabilmente è una delle zone più conosciute in Germania, e quindi immagino che abbia colpito particolarmente questo sisma. Scusami, adesso non ti ho capito perché c'era rumore. No, ti dicevo, l'Emilia è sicuramente una delle zone più conosciute in Germania, quindi immagino che abbia avuto eco e risonanza il terremoto. Sì, sì, infatti, la Germania lo segue con molta attenzione e credo anche con molto affetto, no? Mm-hmm. Poi ovviamente un cibo, un alimentare come il parmigiano, è una cosa del mondo, tutti conoscono, no? Tutti lo sanno. Sì, insomma, diventa il nostro servizio sarà proprio su questo, questo caseificio più che altro. Diventa anche un aggregatore di emozioni e di sentimenti quel formaggio. Infatti, quel parmigiano. Se il parmigiano non è emiliano, non è italiano, non so cos'altro. Assolutamente. Ambros, invece hai fatto anche un viaggio nell'Italia che cambia, nell'Italia politica che cambia. Chi hai incontrato? Sì. Allora, sono stato in viaggio con un mio amico italiano, un collega che vive a Berlino, Riccardo Valsecchi. Sì. Noi siamo andati da Attilio Fontana a Varese, il sindaco di Varese, e poi abbiamo incontrato, credo come i primi giornalisti tedeschi, abbiamo incontrato Federico Pizzarotti a Parma. Mm-hmm. Con lo spirito di capire o... Di capire un po' quello che abbiamo chiamato in Germania, diciamo, il populismo italiano, che poi ovviamente non per dire tutto sia uguale, ma per capire esattamente cosa sono le differenze fra i vari movimenti politici comunque nuovi, anche se la Lega ovviamente non è un movimento nuovo, ma voi lo sapete meglio di me che la Lega sta cercando, deve cercare di riprendersi, di fare quasi un nuovo inizio, e Attilio Fontana mi sembra il personaggio proprio giusto per mostrare ai lettori tedeschi come la Lega del dopo Berlusconi cerca di riprendersi. Mm-hmm. Mentre il movimento di Beppe Grillo lo hai capito, o comunque i tedeschi lo hanno capito, si è resa a spiegare con un'intervista a Pizzarotti o è ancora... Pizzarotti diciamo un personaggio molto molto simpatico, molto aperto, anche Fontana del resto, no? Sì. un personaggio come persona molto simpatica, solo che sappiamo tutti che il compito dei politici non è essere simpatici ma realizzare la buona politica per i cittadini. Allora, Pizzarotti è molto simile ai pirati tedeschi, no? Mm-hmm. È molto giovane, è molto aperto, lui dice che amministrare una città è come fare un start-up, non si può pretendere che uno subito sa tutto, no? Lui ha molte volte ha detto non lo so, aspettiamo, devo parlare con gli assessori, devo informarmi, e questo lo so che a molta gente non piace, perché loro pretendono che tutti sanno tutto dal primo momento, invece è proprio l'atteggiamento dei pirati tedeschi. Mm-hmm. Poi la grande differenza sicuramente è Grillo, perché i pirati tedeschi fanno politica senza un personaggio carismatico, e questa è la grande differenza, mi sembra anche la grande differenza della politica italiana e tedesca al momento, perché certo. La Merkel, diciamo, non è che sia molto carismatica, si può dire molte cose di lei, ma carismatica proprio non è. Invece voi avete Grillo, avete Vendola, quindi insomma leader... una politica che parte dal basso, perché così dovrebbe essere, almeno si richiede la partecipazione dei cittadini, però c'è comunque sempre il bisogno di una figura carismatica che faccia un po' da traino, è un po' questo almeno la lettura che hai raccolto. Ambros, leggeremo nei prossimi giorni i tuoi articoli sul quotidiano? Quando saranno in uscita? Ma sai, com'è con il quotidiano? Poi adesso ci sono gli europei, diciamo, questa pagina per la reportage, sempre ci sono i servizi sul calcio. Ma spero di poter pubblicare giovedì o venerdì la reportage sui terremotati, perché questa mi sembra più urgente, e poi la settimana dopo facciamo il servizio sui sindaci. Perfetto, www.tazze.de il sito per tenersi aggiornati. Ciao Ambros, come sempre grazie e complimenti per il bel lavoro che sempre fai. Ciao, buon grazie sabato. Grazie a te, grazie a voi, buon ascolto. Ciao. Abbiamo parlato di crisi, ovviamente la parola crisi non può che essere abbinata alla parola Grecia. In Grecia ci saranno le ennesime elezioni, sarà veramente la tappa di un cambiamento, si consoliderà quelle che sono state le tendenze nelle ultime votazioni, ma soprattutto qual è il clima che si sta respirando in queste ore ad Atene e dintorni. Andiamo in Grecia, lo facciamo con un paio di voci amiche. La prima è quella di Francesco Martino, giornalista dell'Osservatorio dei Balcani e Caucaso, che appunto è in Grecia per seguire le elezioni. Ciao Francesco, ben ritrovato. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Balcanicaucaso.org è il sito dove leggeremo tutti i tuoi reportage. Quando sei arrivato in Grecia e qual è stato il primo impatto che hai avuto? Sì, io sono arrivato ieri qui ad Atene, diciamo che l'impatto è stato torrido dal punto di vista ambientale, qui ad Atene c'era una temperatura veramente tropicale e invece direi piuttosto silenzioso dal punto di vista diciamo del clima elettorale, nel senso che anche oggi appunto ci si prepara alle elezioni, ma non ci saranno comizi, il giorno di riflessione prima di questo voto. E direi che se ci sono due parole che possono sintetizzare lo stato d'animo del paese in questo momento sono speranza e paura. Sì, ma più speranza o più paura? Perché è vero che queste sono le due parole, ma è anche, credo, difficile dare una priorità in questo momento, sì, vero? Naturalmente è molto difficile sintetizzare lo stato d'animo di un'intera nazione. La mia percezione personale è che in questo momento sia la paura a prevalere, anche se rimane comunque viva la speranza che in qualche modo si riesca ad uscire da quello che sembra ormai un vicolo cieco. Anche queste elezioni sono la dimostrazione della difficoltà che ormai è diventata, oltre che economica, prettamente politica, visto che le elezioni del 6 maggio scorso alla fine hanno portato ad un nulla di fatto. Naturalmente è estremamente difficile fare qualsiasi tipo di previsione, visto che le elezioni del 6 maggio hanno definitivamente mostrato che il sistema politico che ha retto la Grecia fino ad oggi, dalla fine della dittatura dei colonnelli, fondamentalmente è stato disintegrato dalla crisi. Gli ultimi sondaggi non ufficiali, perché è da una settimana circa che non si possono mostrare sondaggi ufficiali, lasciano presagire che forse saranno i conservatori di Nuova Democrazia alla fine a prevalere, ma naturalmente è molto presto per esprimersi, bisogna aspettare il voto di domani. E Francesco, con l'Osservatorio Balcani Caucaso, insomma, cercate sempre degli approcci diversi o comunque dei punti di vista particolari nei vostri scritti, nei vostri racconti che fate dalle zone di cui vi occupate. Tu andrai a cercare storie, andrai a cercare persone o sarai lì proprio per fotografare invece il mero dato politico? Ma il mio obiettivo è di fare entrambe le cose, visto che il nostro focus è molto forte appunto sull'Europa del sud-est. Quello che tenterò di fare, oltre a raccontare diciamo la cronaca delle elezioni, e anche vedere come la crisi abbia toccato le varie comunità di altri paesi balcanici, come soprattutto la Bulgaria e l'Albania, che sono fortemente presenti in Grecia. Ci sono comunità immigrate molto molto grandi e vorrei tentare di capire meglio come questa crisi sta cambiando la realtà di chi è venuto in Grecia per cercare una vita migliore e si è trovato invece oggi a subire le conseguenze di una situazione innanzitutto economica ma anche politica di grande instabilità. Grazie a voi Francesco, in bocca al lupo per queste ore di intenso lavoro, questi giorni di intenso lavoro. Balcanicaucaso.org è il portale per leggere tutti i tuoi reportage. Ciao, alla prossima. Ciao, a presto. Ciao. E noi però rimaniamo in Grecia e lo facciamo con un taglio particolare, e anche lei l'abbiamo sentita molte volte, espertissima di questioni economiche, espertissima di Europa, una bella pagina oggi sulla Stampa con un'intervista all'ex premier Papandreou. Poi però a fondo pagina c'è un altro articolo che, come sempre, noi curiosi di altre notizie, insomma, ha calamitato la nostra attenzione. Il titolo del pezzo è "E in cucina spopolano i piatti della crisi". Si parla di un libro, una sorta di ricettario appunto al tempo della crisi, e l'autrice di tutto ciò è Tonia Mastrobuoni della Stampa. Ciao Tonia. Ciao, buongiorno. Ti ho svegliato, lo so. possiamo svelarlo, è il bello della diretta. Tonia, no, hai fatto una... prima di parlare del ricettario hai avuto la possibilità di fare questa chiacchierata con Papandreou poche ore prima delle elezioni. Si parlava di paura e speranza, sono veramente queste le due parole che stanno accompagnando il clima preelettorale? Sì, sono d'accordissimo. Vorrei aggiungere che ci sono alcuni sondaggi segreti che danno ormai per certa la vittoria di Nuova Democrazia. Secondo me, se dovesse uscire dalle urne questo scenario, cioè uno scenario in cui di una coalizione che si impegnasse, insomma, a continuare a mantenere gli impegni con l'Europa, l'Europa però, siccome la coalizione sarà probabilmente debole, secondo me il punto vero è che l'Europa non potrà non concedere qualcosa alla Grecia, perché altrimenti se ci fosse questa coalizione pro memorandum, quindi Nuova Democrazia, PASOK e eventualmente Di Mare, insomma la sinistra democratica, sarà comunque una coalizione debole e rischierebbe di avere i sindacati in piazza dopo una settimana di nuovo, quindi c'è bisogno anche di un sostegno europeo stavolta. E tornando a Papandreou, al di là del politico, che uomo hai trovato? Cioè, è pentito? Ma in questo momento, nel senso che il mese scorso l'ho intervistato in esclusiva, quella era la prima intervista dopo che aveva lasciato in assoluto. E questa invece l'abbiamo fatta anche con altri giornali. Sì. E la questione è questa: che Papandreou insiste che se si fosse fatto il referendum a novembre scorso, come aveva proposto lui, e in questa intervista di oggi lui rivela anche che la Merkel era d'accordo, e questa è la notizia vera, sì, forse si sarebbero evitate le elezioni anticipate. Il ragionamento è abbastanza convincente, perché lui dice: se avessimo fatto sfogare all'epoca i greci, se avessimo fatti rispondere a una domanda semplice, volete impegnarvi, continuare a impegnarvi con l'Europa e quindi rimanere dentro l'euro, i greci avrebbero risposto di sì. Mm-hmm. Ma hai trovato un uomo pentito per essersi dimesso, per essere ai confini adesso della vita politica? Io gli ho chiesto una cosa, perché la cosa che mi incuriosiva molto era, dopo che la Spagna è riuscita adesso a avere una sorta di accordo speciale, no? Lo sappiamo, un accordo, sì, dedicato proprio alle banche, negoziando molto ovviamente, io gli ho chiesto: ma non si è pentito di non aver negoziato di più? Forse i greci avrebbero fatto sacrifici meno pesanti e così, però lui non sembra pentito, ecco. No, quindi... questo mi è sembrato un po' curioso, perché oggi tutti dicono che i sacrifici della Grecia non sono di per sé sbagliati, ma il problema è che li abbiamo concentrati in pochissimi anni, quindi li abbiamo massacrati. Certo. E tante volte in questi mesi, seguendo la crisi greca, abbiamo anche trovato spunti e slanci di creatività per uscire dalla situazione di crisi, appunto. E anche tu hai scovato questo libro di cui hai parlato, Sui piatti della crisi. Che cos'è? Di cosa si tratta? Allora, lei si chiama Eleni Nikolaidou, sì, e ha scritto questo libro, che non è il primo libro, anzi è il 23° libro che scrive. Questo è diventato un caso perché lei è andata a scartabellare i documenti, diciamo gli articoli di giornale durante l'occupazione nazista, e si è letta 6.000 articoli circa, e lei racconta, insomma, mi ha detto in questa intervista che è rimasta scioccata, perché dice: a un certo punto in prima pagina ho trovato un consiglio su come conservare le briciole di pane. Mm-hmm. E lì è cominciato, lei ha trovato questo filo rosso, no? Di come sopravvivere durante la crisi, come non morire di fame, come cercare di attutire i morti della fame, che è un filo rosso terribile. E ha capito che però era un filo rosso anche di grande attualità, perché insomma io sto andando un po' in giro così, a parte che qui ormai è normale vedere la gente che l'ho vista nell'immondizia ovunque, i greci hanno ancora prezzi abbastanza europei, ma salari, come sappiamo, insomma, bulgari, quindi hanno difficoltà a comprare le cose. E insomma, in questo libro lei descrive come cucinare con niente. Infatti, sono un po' alle ricette della fame e anche con attenzione al gusto, perché leggendo l'articolo, sì, mi ha incuriosito, per esempio, questa ricetta per rendere il sapore della melanzana molto simile alla carne. Quindi, insomma, va bene sopravvivere, però appunto con l'attenzione anche al buono, anche se un po' forse ce la si racconta, no? Con questi anche ingredienti tipici, tipo la resina, che è un vino, ho capito, resina forse. Sì, la resina è un vino tipico greco, e lei dice, siccome ci sono tre ingredienti che hanno salvato i greci, dice lei, in quel periodo, c'è la resina, perché naturalmente essendo una bevanda alcolica è calorica, l'uvetta e le verdure. Insomma, lei dice, questi tre ingredienti hanno un po', capito, leggendo questi articoli, che hanno un po' salvato i greci. Poi lei dà anche consigli che fanno venire la pelle d'oca, per esempio lei dice: bisogna masticare gli alimenti lentamente e lungamente, così si attutiscono un po' i morsi della fame. Insomma, pensare che questi sono consigli che oggi bisogna dare ai greci, perché i greci Sappiamo insomma di questi casi, l'hanno descritti un po' tutti, sì, sì. Dei bambini che svengono a scuola perché sono denutriti, insomma ci sono difficoltà anche da questo punto di vista, quindi leggere questo libro che è tratto da articoli dell'occupazione nazista fa venire un po' i brividi. Assolutamente, sì, è una storia che si ripete, è una storia che invece appunto andrebbe cancellata e che non ti aspetti di ritrovarti adesso e comunque di fianco a casa. Grazie davvero Tonia, e puoi tornare a dormire adesso. Grazie a voi. Tonia Mastrobuono della Stampa da Atene, ciao e buon lavoro. Europost-it. Mostra e concerti in tutta Europa in onore delle energie rinnovabili. Dal 18 al 22 giugno si terrà la 7ª edizione della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, organizzata dalla Direzione Generale Energia della Commissione Europea. L'iniziativa ha l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche nel campo energetico e di favorire il networking tra gli operatori più attivi nell'ambiente. Saranno centinaia gli eventi Energy Day organizzati in tutta Europa. Anche molte città italiane hanno deciso di organizzare un proprio Energy Day per celebrare le energie rinnovabili e l'efficienza energetica con mostre, concerti, conferenze, visite guidate e molto altro. Per saperne di più, visitate il sito eusevidoppia.eu. Cambiamo nazione, ma il tema rimane sempre quello, rimane la crisi. Andiamo in Spagna e c'è un amico dell'altra Europa, Jorge Mari Rodriga, caporedattore della redazione internazionale del Paese. Ciao Jorge. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, la Spagna è stata un po' la protagonista di questa settimana politica europea. Questo aiuto anche consistente, promesso, stanziato dalla Commissione europea, si parla di decine di milioni di euro, reazioni contrastanti in Europa ma anche nella stessa Spagna. Come hanno preso gli spagnoli questa notizia e qual è la verità che si nasconde dietro a questo aiuto? Gli spagnoli hanno ricevuto questa notizia in diverse maniere, all'inizio con un po' di sollievo perché alla fine della settimana scorsa certamente tutti vedevano che la situazione finanziaria era insostenibile, e quando diciamo dall'Europa hanno annunciato un aiuto di 100 miliardi di euro è stato un sollievo, ma poi poco a poco questo sollievo è diventato un po' di paura e anche di non gioia, perché prima di tutto questi aiuti vanno alle banche. Secondo di tutto il governo ha cercato di nascondere la parola riscatto, ha detto che questo era una sorta di prestito e che non ci sarà nessuna conseguenza per le economie, per l'economia delle persone, ma avanzando la settimana si è visto che questo non è così, che questo aiuto, prima di tutto aiutare le banche che non stanno prestando i soldi alle persone, c'è un grande dibattito qua in Spagna perché si deve aiutare soltanto le banche e non l'intera società, e secondo perché il governo sta attuando in questa maniera, diciamo con paura della parola riscatto. Se l'economia spagnola bisogna essere riscattata, sia al più presto possibile. Quindi c'è proprio anche, infatti si è discusso molto su queste parole, il riscatto, il salvataggio, no? Quindi è un prestito, è un aiuto, è un salvagente, che cos'è? Insomma, quindi si è parlato tanto. E al di là della situazione economica, finanziaria, che è fondamentale, qual è la situazione in strada? Cioè qual è la situazione reale? Che clima si respira? Cosa sta succedendo in Spagna in questi giorni? È di una grande incertezza, la situazione è, per dirlo semplicemente, siamo alle porte dell'estate e la gente non sa certamente che cosa fare, non sa, ci sono tantissime persone che non sanno se andare in vacanze perché non sanno se alla volta delle vacanze avranno ancora un lavoro, le aziende stanno licenziando lavoratori, quello che sta, per esempio, quello che sta capitando nei media, nelle radio, le televisioni, i giornali, è una tragedia. Ogni giorno vengono licenziati decine di giornalisti. Questo è solo un esempio. ci sono dei problemi con le grandi aziende, adesso con questo riscatto al salvataggio alle banche, si sa che devono essere licenziati decine di migliaia di lavoratori di banca, e certamente la gente non vede la luce alla fine di questo passaggio buio nel quale ci siamo messi tutti. Il peggio di tutto, la sensazione generale è che i politici non stanno all'altezza della situazione, non sanno come reagire certamente, e che sono i mercati, ma nessuno sa chi sono realmente i mercati, quelli che stanno in comando della situazione. E il movimento giovanile che ha animato la vita politica di fatto europea, prima di tutto spagnola, ma dando il via anche ai vari movimenti in giro per l'Europa, in questo momento anche questi movimenti sono indecisi, sono confusi, sono presenti? Certamente, perché questi movimenti, che senza dubbio sono stati importanti, e la mobilitazione della società in strada fa parte della democrazia, è importante, ma alla fine non sono quelli che devono prendere le quelli decisioni decisive. Importanti. Certo. No? E questo è il punto importante. Queste mobilitazioni servono, diciamo, per fare reagire i politici, per fare reagire a quegli stamenti che devono prendere le decisioni importanti. Ma a un certo punto, se questi stamenti che devono prendere queste decisioni non fanno niente, quei movimenti certamente hanno un valore testimoniale, ma non possono fare nient'altro. Quindi insomma un momento di stallo, di indecisione, di confusione, in attesa non si sa bene di cosa, però mi sembra un po' c'è il rischio di scivolare nella rassegnazione, che è una cosa però poco spagnola, vero? Quindi credo che questa sia un altro vero ulteriore rischio. Certo, prima di tutto qui in Spagna tutto il mondo sta, come ne penso che nel resto dell'Europa, o almeno nel resto dell'Europa, con problemi, aspettando che cosa capita domani nella Grecia. Sì, certo. Che cosa capita con l'euro, se vince la sinistra, se vince la destra, che fanno i nazisti, tutte queste cose. Che capita con la Grecia. Ma poi, come tu hai detto, c'è un senso di rassegnazione. Noi spagnoli non siamo moderati per niente. No. Passiamo dall'euforia alla rassegnazione in 5 minuti. C'è un senso, c'è una calma prima della tempesta. Okay. Come sarà questa tempesta? Chi lo sa. Mm-hmm. Ma certamente i politici devono prendere il comando della situazione, perché ne penso che la cosa più pericolosa per una società democratica è quando, e lo stiamo vedendo questi giorni nella Grecia, è quando la società arriva alla conclusione che i politici non hanno la fiducia della gente. Jorge, cambio un'ultima domanda, cambio completamente argomento, però qua mi chiedono se magari tu, appunto, essendo lì sul territorio, puoi darci qualche dritta. Spagna-Croazia, quanto terminerà? Tutto dipende da che cosa fa Del Bosque, perché hai visto che contro l'Italia giocavamo senza gente avanti, poi Torres è uscito contro l'Irlanda. I croati sono bravi, ma noi pensiamo che almeno un 2-0 ci sarà. Qui in Spagna la gente, almeno, l'unica cosa che resta la fiducia è nella nazionale. Quindi voi due gol li segnate, il problema è se segnano due gol anche i croati. Qua in Italia è questo il vero problema. Sì, timore. Perché quello l'ho sentito, che un pareggio mette fuori l'Italia, ma... Cioè. Questo devo dirlo, l'Italia sempre fa la stessa cosa, la prima fase sempre capita lo stesso, devono vincere per tanti gol e aspettare il risultato dei dati, e alla fine arrivano in finale e vincono. Quando l'Italia inizia così i campionati, occhio all'Italia, che l'Italia arriva benissimo. Lo prendiamo con un augurio, con un buon auspicio. Grazie davvero come sempre a Jorge Maria Rodriga, caporedattore della redazione internazionale del Paese. Ciao Jorge, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao ciao. Europost-it. Paese che vai, stessa assistenza sanitaria che trovi. Giusto in tempo per le vacanze estive, la Commissione europea ha lanciato un'applicazione per smartphone che risolve ogni dubbio su come utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia. La tessera, detta TIM, consente infatti di accedere all'assistenza sanitaria in 31 paesi europei, godendo delle stesse condizioni e delle stesse tariffe applicate ai cittadini del posto. Questa nuova app europea sarà uno strumento molto utile, considerata la diversità dei sistemi sanitari dei singoli paesi. Per maggiori informazioni cercate European Health Insurance Card App sul sito ec.europa.eu. Ci tenevo anche attraverso questo video a dare un mio messaggio di apprezzamento per questa iniziativa che considero molto utile, preziosa, perché mette insieme due esigenze. La prima esigenza è quella di informare meglio i cittadini europei rispetto alle opportunità offerte dall'Unione Europea, e la seconda esigenza è quella di farlo mettendo insieme notizie e uso corretto delle nuove tecnologie. La modalità che il dottor Carpano e i suoi collaboratori presentano è una modalità fortemente innovativa. Quello che questa modalità è Gianni Pittella, l'onorevole Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo, in un video messaggio per presentare un progetto molto importante. Stiamo parlando di crisi, ma si può parlare anche invece di opportunità e di risorse. Questo progetto verrà lanciato domani. Si chiama Europa Book, europabook.eu. È un nuovo portale, un aggregatore per le organizzazioni che partecipano ai finanziamenti europei. Di fatto sarà una grande vetrina, ma molto concreta, molto ricca di consigli pratici sul come accedere in maniera veloce, in maniera corretta, in maniera incisiva alle opportunità finanziarie che sono l'Europa dà e sono lì, sono soldi che si possono avere, che si possono prendere, che si possono chiedere e che invece noi italiani non siamo capaci di fare, o comunque lo facciamo in misura ridottissima. Per capire bene che cos'è europabook.eu abbiamo invitato il direttore e fondatore Roberto Carpano. Ciao Roberto, bene. Carpano, scusami Roberto. Se ti dico grazie, Roberto Carpano. Carpano, eccoci qua. Buongiorno a te. Roberto, voi siete partiti da un numero che molto facile, nel senso che il tasso di successo delle proposte presentate dalle organizzazioni italiane alla Commissione europea è inferiore al 20% e pone l'Italia al 21esimo posto rispetto ai 27 Paesi membri. Cosa vuol dire? Che non siamo capaci di accedere a questi finanziamenti? Ma vuol dire che il tasso di successo è basso e quindi vuol dire che c'è ancora molto spazio davanti a noi per aumentare l'efficienza. L'efficienza vuol dire che se uno considera quelle che sono risorse umane e risorse finanziarie che sono investite quando uno scrive un progetto, a oggi i risultati non sono all'altezza delle aspettative. Se noi vogliamo così capire un pochettino quali sono i punti deboli, vediamo che abbiamo essenzialmente due gambe che un pochettino zoppicano. La prima è quella che è la ricerca di partner validi, seconda è una qualità della scrittura che si declina sia in quelle che sono proposte che rispondono ai bandi, sia proposte che si collegano ai progetti che sono già stati finanziati. Su questo secondo aspetto volevo spendere qualche parola in più, perché i progetti che l'Unione Europea ha finanziato hanno un valore, hanno un grossissimo valore sia come conoscenza che come sapere, e secondo me andrebbero riletti oggi, perché molte soluzioni che vengono cercate, molte di queste stanno chiuse dentro ai cassetti che spesso si aprono con difficoltà. E Europa Book vorrebbe contribuire a fare conoscere meglio, come diceva il vicepresidente Pittella, i progetti e le soluzioni che l'Unione Europea ha già finanziato. Roberto, grazie davvero. Siamo contenti di aver battezzato un po' questo portale da domani. Lunedì ci sarà il lancio ufficiale, ma sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa per approfondire meglio e magari proprio entrare anche dentro all'operatività dei singoli progetti per dare consigli e le coordinate giuste per accedere a questi finanziamenti. Complimenti a te e a tutto il tuo staff e buon lavoro. Federico, così grazie. Quindi, per chi è interessato domani alla Commissione Europea Spazio Europa, il portale viene inaugurato dal commissario Tajani che apre i lavori. Grazie. Grazie a te, europabook.eu. Ciao. Europost-it. Umorismo e creatività. L'Europa premia la vignetta migliore. La rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con il sito web Press Europe e la rivista internazionale, propone la seconda edizione di Una vignetta per l'Europa, il concorso per la migliore vignetta politica sull'Unione europea. Il concorso ha due obiettivi: sensibilizzare i vignettisti sui temi europei e stimolare l'interesse dei cittadini per la vita politica comunitaria. Quale migliore strumento dell'umorismo? Aguzzate l'ingegno e le matite, dunque. La cerimonia di premiazione dei vincitori di questa seconda edizione del concorso si svolgerà domenica 7 ottobre 2012 durante il Festival Internazionale di Ferrara. Il primo classificato riceverà 2.500 euro, il secondo 1.500 e il terzo 1.000. Affrettatevi, c'è tempo fino al 22 giugno 2012. Per maggiori informazioni cercate Una vignetta per l'Europa su ec.europa.eu. جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدلي في الأفق فقلت نورتني يا خير زائرة. Mi chiamo Nyang. Sono il griot della stazione. Anzi, sono l'unico griot di una stazione al mondo. Mi piace inventare alberi genealogici alle persone di passaggio. Salve, sono Iqbal Masih, vengo dal Pakistan. 8 anni e lavoro 18 ore in una fabbrica di tappeti. L'Europa si fa soprattutto passando attraverso la cultura. Questa è la nostra convinzione, quindi ci piace portare il nostro contributo dando eco alle tante iniziative culturali che aggregano più culture, appunto contaminano le nazioni tra di loro. Come questa mostra, la sua terza edizione è stata inaugurata venerdì, siamo ad Ancona, il titolo è Arrivi e partenze 2012, il tema è Mediterraneo, una sorta di incrocio, perché arrivi e partenze ti dà proprio l'idea di questo traffico di stimoli, sono stimoli artistici, e con noi c'è la curatrice della mostra, diamo il benvenuto ad Elettra Stambolis. Elettra, ho detto bene il cognome? Bravissimo. Scusami, che stavo 10 lode. Capisco che è difficile, quindi complimenti. Tu sei di origine greca, ma vivi in Italia da una ventina d'anni, se non erro, e sei la curatrice di questa mostra che durerà fino al 2 settembre. Vede coinvolti più di 25 artisti del Mediterraneo, quindi si parla dei Balcani, si parla dell'Italia, della Grecia, della Spagna e della Francia, e molti anche del Mediterraneo non europeo. E da cosa nasce l'idea? E cosa si può vedere appunto in questo Arrivi e partenze? L'idea c'era già, e questo è un progetto triennale che giunge al suo epilogo. Il primo anno fu l'Italia, il secondo anno fu l'Europa, il terzo è stato appunto l'area del bacino del Mediterraneo. Quello che accomuna gli artisti è sicuramente l'età anagrafica, sono tutti under 35, e la grammatica con cui costruiscono le opere, cioè lavorano tutti sul codice della contemporaneità, sono artisti giovani dal punto di vista anagrafico, ma già molto maturi dal punto di vista artistico. E dovendone scegliere uno, massimo due per paese, è chiaro che la scelta va su una qualità molto alta dei lavori. E devo dire, ne esce fuori un mosaico, una mappatura che sì, come tu dicevi, ci sono incroci, ci sono contaminazioni, ma ci sono soprattutto ancora molti muri, molti confini, molte identità divise, una percezione, una lettura la loro che crea più crisi che pacificazioni. Diamo subito il sito, che arrivi partenzemediterraneo.it. Grazie davvero, complimenti a te e ai 25 grazie. Artisti. Al momento dei saluti, un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa. Vi ricordo che martedì sera alle 19, dalle 21 alle 24, sarò in onda con lo speciale La notte prima degli esami, quindi vi aspetto con i vostri racconti e con i vostri ricordi. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao!